Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Oh, abbiamo capito, Palmiro. Buonasera a tutti. Buonasera anche a te, Palmiro, che non ci sei in studio, però. Però sei nei nostri cuori, Palmirone. Buonasera a tutti. Buonasera a tutte e tutti e benvenuti, benvenute all'Arte del Fischio. Ebbene sì, un'altra domenica sera, oggi 6 dicembre, 19:52, 52 minuti di ritardo per noi. Potrebbe essere un record. No, ma noi non puntiamo ai record, non ci interessano. E ci dispiace solo per quelle 9 entità che erano all'ascolto di Radio Wombat aspettando l'inizio di questa straordinaria trasmissione della domenica sera. E, però abilmente deluse da noi ripetutamente in ritardo, buonasera. Dottor Io qui. Con te ci sono io, che sono buonasera, reverendo H. Never Boy. Che bello, siamo qua a rilassarci. Mi sa che saremo solo io e te stasera, perché tutti quanti ci hanno paccato, come si suol dire. Esatto, e noi ci coccoliamo qui nei Frittole Studio, stiamo vicini, fa un freddo cane, però questo fischio ci riscalda, e la musica ci riscalderà, la musica che manderà il reverendo stasera. È che non ci può riscaldare la folta chioma di Palmiro, e quindi siamo qua che abbiamo dovuto reinventarci. Cosa fare? Non più tappetini live, bensì un nuovo significato al nome di questa trasmissione. Non più l'arte del vizio, ma l'arte del fischio. Fischio? Fischio. Da non confondersi con il fisco, che è una pratica estremamente nociva dalla quale vi invito a tenervi alla larga. Stasera è una puntata molto densa di cose. Stasera sì, parleremo di fischi, fischio, il fischio nella storia, il fischio praticato. Avremo anche un'intervista telefonica con un fischiatore professionista e niente, oggi è così, ci piglia, lo sentite insomma in modo molto scialo perché è una giornata estremamente piovosa, uggiosa e noi ora la pigliamo un po' con leggerezza invece, dai. Eh sì, abbiamo voluto iniziare con questo Bernard Herrmann Twisted Nerve, di sicuro l'avete riconosciuto perché è veramente la colonna sonora di Kill Bill, l'avrete visto di sicuro. Uno dei temi fischiati più famosi del mondo, giusto? Per quanto ci riguarda sì, però stasera insomma ne scopriremo delle belle. Esatto, e prima ancora di iniziare a entrare nel vivo della nostra trasmissione, la puntata di stasera, vi ricordiamo che potete comunicare con Frittole, con noi altri, scrivendoci a frittole@gattini.ninja, scrivendo una mail, richiedendo musica, dandoci delle opinioni, consigli. Assolutamente, assolutamente, vi aspettiamo. Ce l'abbiamo aperta, ve lo garantiamo. Vi faccio il refresh ogni 30 secondi per non dimenticarmi di nessuno, che poi la gente ci infama e ci scrivono e non li leggiamo. E fanno bene a infamarci. Intanto vi lasciamo un po' con Jojo Mayer. Jojo Mayer Nerve, un live del 2018. Questo batterista... Così, il dottorino mi spiegava che è veramente uno dei padri dei beat moderni e ve lo lasciamo gustare. Intanto faremo cose sconce. Tipo stappare birre e bercele. Allora, come dicevamo, avremo una telefonata con un fischiatore esperto, ma prima di contattarlo, sì, Volevamo darvi un po' di info su questa pratica molto antica e molto diffusa, molto particolare. Sì, una pratica millenaria che immagino tanti di voi abbiano provato a praticare nel tempo libero o no. E noi per informarci siamo andati su Wikipedia, per Wombatpedia. Su Wombatpedia potete seguire con noi quello che stiamo leggendo. Esatto. Iniziamo proprio dalla definizione di fischio. Sì, prego, Neverboy. Il fischio è la creazione di suoni per mezzo dell'aria che scorre rapidamente attraverso una piccola apertura di una cavità e crea turbolenza. Molto semplice. Tramite metodi diversi, l'uomo può produrre fischi dalla sua bocca, che egli usa per l'attività musicale e in alcuni casi anche per la comunicazione. E infatti proprio per la comunicazione pensano gli storici che sia nata la pratica del fischio, quindi si suppone che il fischio come mezzo di comunicazione non verbale sia vecchio quanto l'umanità. Quindi da sempre gli esseri umani hanno utilizzato il fischio per comunicare su lunghe distanze e per avvertire dei pericoli. Non vorrei dire che anche gli animali l'hanno fatto, insomma forse lo facevano prima dell'uomo. I cenni storici sul fischio sono numerosi. La pratica di fischiare, del fischiare agli altri, si ritrova già ai tempi di Cicerone, il quale scrive in una lettera ad Attico, riferendosi alle sue rappresentazioni, si vanta di aver ricevuto grandi applausi senza neanche un fischio. Sine ulla pastorizia fistula. Quindi il fischio nel contesto appunto teatrale o artistico era già paragonato all'infamata, e quindi si parla di millenni fa. Successivamente grazie reverendo. No vabbè, stendiamo un velo pietoso su YouTube. Ti fischio, ti stanno fischiando tutti. Veramente. Da casa. Va bene, allora, poi vabbè, vanno avanti, dicono che intorno al periodo, quando è che hanno iniziato a usarlo come arte musicale, l'avevo trovato, ancora prima, nel periodo tardo medievale rinascimentale, era legato alla superstizione e alla magia. In molte culture fischiare viene ancora oggi veniva associato alla magia e alla superstizione, e a seconda delle situazioni i fischi potevano attirare o cacciare i demoni. Fischiare veniva anche associato al diavolo, pensate voi, al diavolo in persona, motivo per cui in alcune aree di religione islamica o cristiana venne designato come impuro. Capito perché il diavolo fischia anziché cantare, fischia. Soprattutto per le donne fischiare era considerato un tabù. Ha capito? Ma quante cose stiamo scoprendo stasera? E io volevo arrivare. No, infatti, qua. In molte miniere fischiare nel sottosuolo si dice che porti sfortuna. I canarini sono sempre stati utilizzati, infatti, per misurare la qualità dell'aria respirabile nelle miniere. E quando c'era poco ossigeno, questi dolci animaletti schiattavano al posto degli esseri umani. Era permesso fischiare solo all'uccellino, chiaro. Io sto cercando l'etimologia nel frattempo e la Treccani non me la vuole dare. Comunque fischio in gergo toscano deriva da fistio. Comunque, continuando a spulciare l'internet, vengono fuori un sacco di cose interessanti sul fischio. E questa è simpatica. Ho trovato un secondo. Prego. Fischiare, fistiare. Fischiare volgarmente fistiare, dialettale mondano fiscaer, napoletano siscar, provinziale sisclar. Cat, non so cosa che voglia pronuncia dire. Sarà, che hai? Ah, sarà un tipo catalano. Sempre scritto con la X, ma è sempre sisclar. Da fisclare, detto per fistlare, forma sincopata di fistulare, che nel latino latino barbaro prese anche tale significato, insomma il fistulare. In una vecchia glossa longobarda leggesi infatti fistula vulgo fiscla dicitur. Avete capito. Devi rileggere tutto. Non sei capito veramente un cazzo. E poi? È finito, no, basta, perché io se continuavo invece a parlarti invece dei modi di fischiare dell'essere umano. Ah, che uno pensa, cioè, fischi. No, è un mondo infinito. Cioè, ora. Ma Wikipedia, chiaramente, Wikipedia racchiude tre grandi categorie. Sì, esatto, bravo. Cioè, fischiare con le labbra, il fischio labiale. E fischiare senza dita e senza labbra, quindi senza niente, fischio senza niente. Questo è interessante, quello con la lingua, mettendo la lingua sul palato in un modo particolare. E poi no, però guarda, ti faccio notare che in questa macro categoria c'è un sottogruppo che è il fischio a due toni, molto interessante. Ad esempio, a intervalli di un terzo d'ottava. Oddio. Richiede non so neanche che vabbè. Richiede una grande destrezza e molto allenamento. Allora, bisogna tirar fuori la lingua così che su entrambi i lati rimanga un piccolo spazio tra la lingua e gli angoli della bocca. L'aria passa attraverso i denti e grazie all'ampliamento delle guance e della lingua il tono varia. Indubbiamente metteremo un esempio da YouTube, che immagino che ci darà. Ci farà capire cos'è il fischio a due toni. È veramente curioso. Intanto abbiamo sentito un esempio di fischio in sottofondo. Questo è uno schiocchio. Questo è uno schiocco dato dalla mia sensazione di piacere nel gustare questa buonissima birra artigianale. E poi il terzo gruppo, il terzo grande gruppo è il fischio con le dita, che con molto allenamento si potranno produrre dei fischi con tutte le dita. Cioè, una cosa, è infinito il mondo del fischio, è veramente infinito. Le tecniche sono tantissime. Eh sì, ma infatti. E ora tra poco telefoneremo al nostro esperto. Come ci facciamo notare i nostri esperti della leggera, il fischio è sempre stato un'arte alla portata di tutti, uno strumento musicale a portata di mano, veramente leggerissimo, che richiedeva molta destrezza, molta abilità, e infatti da sempre è stato adottato, è stato un protagonista della creazione culturale popolare. Esatto, però io ti interrompo adesso, reverendo. Ci sono anche i garini e ci sono anche le gare. Ci sono le gare infinite. Ma io volevo dire, ora parleremo anche delle gare, ma ti volevo interrompere perché volevamo avvertirvi voi a casa: fischiare può essere molto pericoloso. E infatti io leggo, infatti non piace alla controparte. E io leggo qui sulla Nuova Sardegna, sulla sezione di Sassari, che un fischio da record lo fa finire dietro le sbarre. Il fischio non è piaciuto alle guardie. Oddio. E quindi Sassari potrebbe ambire ad entrare nel Guinness dei primati per il fischio più acuto e prolungato. Per il momento il record attribuibile ad Andrea Bitti, 27enne sassarese, è quello di essere finito dietro le sbarre a causa della sua capacità di sibilare al massimo dei decibel. Quindi attenzione, mamma qui abbiamo mia. Un campione, massimo, un campione che massimo. è stato represso in questo modo brutale dalle forze dell'ordine, dalle forze del disordine, del disagio. Maledetti. Non si può manco fischiare. Comunque, scusa, dovrei avere il suonino giusto. Maledetti! Grazie Revendo, sempre sul pezzo. Ecco, sapete bene che è riferito. Va bene, e quindi è pazzesco, perché poi vabbè, questo articolo parla di come è stato fermato questo giovane fischiettante che fischiettava per strada, e da lì poi l'episodio riaccende le polemiche sullo stato di degrado in cui si trova la zona e bla bla bla. Vabbè, comunque. Allora, dovrei aver trovato un'azione sovversiva e fischiare, no, veramente, attenzione. Veramente attenzione. In questo periodo di buonasera a tutti, buonasera a tutti Neverboy, io non so che dire, penso che non ti daremo più un soldo per questa prestazione. No, allora il problema è che ci siamo decisi all'ultimo di salire qua, e effettivamente nello specifico alle 6:35. Sì, per poi cui abbiamo iniziato alle 7:45. Esatto. Però vabbè, siamo qua a surfare su YouTube e YouTube di merda, io non mi sono messo un ad block e continuo a mandarci pubblicità di McDonald's. Maledetto. Ah, beh, l'hai anche detto, quindi gli fai pubblicità anche te, certo. Peggio. Allora, comunque, dai, concludiamo questa carrellata di notizie, così possiamo chiamare il nostro fischiatore. E che cosa dire? Che c'è proprio un vero e proprio campionato mondiale. Io qui leggo su questa testata, non lo so, dopo, vabbè, prima Bergamo, penso ci leggerei solo questo, okay, riguardo al fischio, scusate. Però è un bel articolo interessante sul fischio, ci parla della campionessa mondiale di fischio, che è una ragazza australiana e si chiama Molly Lewis. Molly Lewis. Lewis, grazie. Campionato del mondo che esiste dal 1973, e pensate che la leggenda narra che sia nato per caso. Infatti nel 1970 la competizione non era altro che una normalissima gara canora. Nel 73 però un partecipante chiese se fosse possibile esibirsi fischiettando. Quindi il risultato fu talmente bello che decisero di cambiare sto festival e è stato fondato Campionato Mondiale di Fischio. Oh, che non so dove si tenga. Non lo so. Veramente. Prima Bergamo non lo dice, perché parla solo di Bergamo, chiaramente. Vabbè. Prima Bergamo.it. Il paese con il maggior talento fischiettante è il Giappone. Ah, sì, eh? Davvero. E infatti qua abbiamo subito un video Facci sentire. Lei è Millie? Molly, no, come si chiama? Molly Lewis? No, è World Whistling Championship in Giappone. È molestissimo. Comunque, vi ricordiamo la mail a cui potete scriverci: frittole@gattini.ninja. Ora proviamo a contattare il nostro fischiatore professionista, che lui, oltre ad essere un fischiatore, è un batterista, è un musicista, batterista jazz, e quindi oltre al fischio parleremo un po', se c'ha voglia, vediamo ora, lo chiamiamo, c'ha voglia, si parla un po' anche della situazione in cui che si trovano ad affrontare tutti i musicisti quei musicisti che lo fanno di professione, che ci provano a campare con la musica. Vuoi per caso mandare uno stacchetto musicale, già che sì, stiamo parlando da... Vai. Pensaci te. Vabbè, appena finisce questo video di fischi. Comunque vediamo di fare due chiacchiere anche sulla condizione di chi... chi si trova, di chi vive di concerti, spettacoli e arte in e generale, di fischi. E che però è mesi che si trova in una situazione più che precaria. Oh, bello. Pronto? Ci senti? Eccoci. Grande. Mi allora, sento, lui è Mike. Mike il fischiatore. Benvenuto. Benvenuto a Frittole. Sì, siamo in diretta. Ah, perfetto. Io mi stavo ascoltando su streaming. Non sento la mia voce da streaming, quindi. No, diciamo che la sentirai con qualche secondo di ritardo. Pronto? Ah, ecco, allora stacco, se no divento. Sì, no, ti intorti, eh. No, ascolta solo noi al telefono. Allora, grande, benvenuto su Radio Wombat, è la prima volta che ci sentiamo per telefono e speriamo, dai, che non sia l'ultima. Assolutamente. Yeah, è un onore, ragazzi, è la prima volta che mi trattano veramente come un fischiatore, in un modo lievemente serio, diciamo, perché in realtà io sono un batterista, cioè nel senso che sono onorato di venire a parlare di questa cosa. Beh, io in realtà sono un batterista, come avete detto prima. Sì, esatto, diciamo, in realtà è la tua il tuo strumento principale, la tua occupazione principale. Se vuoi mettiamo giù e facciamo un'altra introduzione di mezz'ora no, sulla infatti, batteria. Scusa, chiamiamo un fischiatore vero a questo punto, che lo chiamiamo a fare Mike, se non no, non è vero. Esatto. Allora, senti, innanzitutto, vabbè, come stai? Tutto a posto? Sì. Tutto a posto a casa? Bene, bel tempo. Tutto regolare, dai, una domenica uggiosa di pioggia e di attesa, diciamo. E di attesa, di questa telefonata, giusto? Sì, anche e soprattutto, sì. E poi, vabbè, finalmente domani ricomincio a insegnare ai miei allievini di batteria, quindi sono contento per questo. Si allora, senti, allora anziché iniziare a parlare del fischio, parlaci intanto di com'è la tua situazione, non so, lavorativa o comunque com'è la situazione di un musicista che vive di quello, di concerti, di eventi, e in questi mesi in cui appunto il settore dello spettacolo è stato il primo a essere chiuso e diciamo quello che rimane ancora fondamentalmente chiuso e tutto bloccato. Sì, allora il problema principale è che è nella categoria, vabbè, un po' generale chiaramente, però è nella categoria dei musicisti, quelli da club, da locale, anche da festicciole private, diciamo il gran numero in realtà di musicisti che ci sono in Italia, che però sono dei musicisti fantasma sostanzialmente, non vengono un po' cagati un po' da nessuno, diciamo, purtroppo. E questi musicisti che, ora io sono anche per metà studente e diciamo per un terzo studente, sto finendo la magistrale in batteria jazz, a scena jazz, quindi bravo, per questa parte. E grazie. e per un altro terzo sono insegnante, diciamo così, quindi non sono proprio un professionista. Ti dividi certo, ti dividi in queste sì. Però tanti miei colleghi suonano appunto in contesti magari non a livelli appunto nazionali, di festival o rassegne importantissime, però sono super musicisti e lavorano tanto nei piccoli locali, e lì è il vero problema, perché non ci sono contratti, perché non c'è tutela, perché se vuoi fare cose a modino, in bianco, per bene, praticamente non fai nulla. È impossibile, e quindi è una categoria fantasma che si spera, dopo tutto questo casino, che venga un po' presa in esame per bene. Già è stato iniziato questo processo, sono nate associazioni nell'ambito jazz, c'è un'associazione che si chiama MIDI, MIDJ, Musicisti Italiani di Jazz, che si sta occupando della tutela del musicista in tutti i suoi ambiti e a tutti i suoi gradi, perché i gradi del musicista sono poi tantissimi, appunto si va dal piccolo locale al matrimonio, al musicista di strada, in realtà, che ha fatto anche quello, al musicista da palco, diciamo. Sì, o al turnista, insomma. Sì, al turnista, però ecco, quella categoria lì è rimasta un po' fregata, quindi speriamo in una... Cioè, diciamo che c'è l'opportunità anche con tutto questo, anche questa paura e disagio dall'altra, che le cose finalmente possano prendere una piega più appunto più visibile agli occhi della società, agli occhi dello Stato, eccetera. Vabbè, sì. Sì. D'accordo, quindi comunque la situazione è questa, si naviga a vista per ora. Però dici sì, che insomma anche fra musicisti vi state un po' organizzando, c'è un coordinamento, insomma, sì. Insomma si stanno coordinando azioni o più per... Cioè, più che azioni è un discorso di dire che ci siamo, che esistiamo anche noi, no? Sì, allora, questo sì, è strano, perché il musicista di per sé ha bisogno proprio del contatto umano per far valere la propria voce, no? Non so come dire, sul streaming la cosa che stanno provando a fare è anche gli organizzatori di festival, così, è il concerto streaming, però il musicista in sé sta, per fortuna, non si adagia a queste infime soluzioni, no? Perché comunque una musica vissuta da uno schermo non ha paragone assolutamente con la musica. Bravo, parole sante. E quindi è difficile questa lotta all'essere più tutelati, anche perché il musicista non è abituato a farlo, in realtà non sarebbe neanche magari il suo compito, cioè l'artista di per sé è una persona che crea, suscita emozioni in chi negli ascoltatori, ecco, e quindi diciamo non è neanche tanto bravo a imporsi, a farsi valere, a vendersi in generale, no? Nel senso, dovrebbe essere una roba più naturale, cioè dovrebbe essere un valore basilare, no? Nel senso, quello di coltivare, cioè coltivare l'arte e chi la pratica, no? Cioè... Sì. La cosa che ci si augura, che poi ci siano delle figure di come ci sono i manager ad alto livello che amministrano tutto l'ambito legale, anche burocratico, dell'artista, però purtroppo solo ad alto livello. Io mi auguro almeno che questo accada anche in categorie appunto di musicisti più da, da club, da piccoli locali, in cui però siano seguiti e che non si debba fare tutto da sé, perché purtroppo ora un musicista di un appunto di una fascia medio-bassa deve essere 4-5 ore al telefono a mandare mail, a fare tutto un lavoro di auto pubblicità per potersi vendere, e questo però diciamo non, sì, non è auspicabile. Magari il musicista no, vorrebbe passare il suo tempo a suonare, sì, o a studiare, sì, fare dei progetti. Il volere è proprio la, la necessità che tra lo studio, le prove e i concerti poi rimane poco tempo per l'ufficio, diciamo. Certo. D'accordo, quindi comunque ti hai detto, ci hai detto che domani ricominci un po' a insegnare, e quindi dai, sì, dai, buona fortuna. Sì, sono contento, sono contento, poi appunto il futuro è molto molto nebuloso, nebuloso. Questa estate l'ho spangata, diciamo, in qualche modo. Però sì, vedremo un po', siamo con le antenne dritte e niente, e speranzosi. Ma sì, faremo dai, queste cabine di plexiglass un metro per un metro. I batteristi ci suonano davvero nelle cabine di plexiglass, fra l'altro. No, dico per gli spettatori. No, il problema vero è per le cantanti, che lì a, nella mia università della scena jazz praticamente loro entrano e non hanno neanche il tempo di attaccare il jack al mixer, che sono inscatolate in quattro cubi di in quattro, diciamo, pannelli di plexiglass, e non si possono muovere da lì. Wow. Abbiamo fatto le storie, no? E queste cantanti sono proprio, vabbè, poverine. Per limitare il contagio, sì, vabbè, va, senti, parliamo, okay, passiamo ad argomenti più, esatto, più allegri e questa leggeri. Questa sera appunto siamo qui all'Arte del Fischio, il nome della trasmissione di stasera, e yeah, una trasmissione eclettica, camaleontica, che cambia faccia ogni domenica, e quindi yeah, ti interpelliamo in quanto fischiatore esperto, parlaci di come ti sei avvicinato a questa arte antichissima del fischio. Stavo già parlando, capito? Oh. Questo è il mio modo. Cioè, ci hai lasciati muti proprio. Davvero? Sì, così sei partito a bomba, senza neanche prendere fiato. Vi ho fatto un gambetto. No, allora, è una cosa che in realtà io ho sempre fischiato, però come tanti di noi fanno, cioè da bambini, quando si impara, no, a fischiare, poi si va bene e uno prosegue se questo gli dà gioia, no? A un certo punto, visto che io sono sempre a suonare tamburi e a percuotere roba e non ne metto mai una nota vera, ti sei ristufato, poi cioè, sentivo questa frustrazione, anche perché a suonare la chitarra mi fa fatica, pianoforte c'è l'armonia da imparare, è un casino, in pianino mi sto mettendo, però io sono una persona abbastanza come si può dire, che le cose, la musica la vivo in una maniera abbastanza improvvisativa, ecco, non troppo studiosa, e quindi la batteria mi è venuta molto naturale, il fischio mi è sempre venuto molto naturale, ho detto perché non farlo seriamente, ho fatto un po' di ricerche e prima di tutto mi sono imbattuto, e non se volete andarlo a sentire anche voi su YouTube, c'è un jazz whistler, Ron McCrobby, che voi avete sentito, fatto sentire delle cose molto lo stiamo fighe, cercando subito. Lui è per me è il mio è la mia fonte di ispirazione, ecco. Ah sì, ecco, guarda, se vuoi l'abbiamo trovato, possiamo mandare già un estratto audio. Hai qualcosa da consigliarci? Così ce lo commenti, poi ci parli delle tecniche. Però intanto dai, il primo che trovate. Vai, questo, Tonight Show 1982. Esatto. Allora, proviamo ad abbassare questa base. Se YouTube carica, non carica. Non carica. Eccolo. È scandaloso quando fa questi, cioè, è veramente pazzesco, sembra, cioè, sì, uno strumento, sì. Quando fa queste scale acute velocissime fa caponare la pelle. Senti, me va? È impressionante. Sì, poi una precisione nel prendere le note, eh? Lui qui... sì, è il fraseggio, sì, cioè, un fraseggio jazzistico incredibile. Yeah. Grande. Yeah. Ron McCroby. Ron McCroby. Yeah. Andatelo a cercare. Davvero, e quindi te sei andato proprio a lezione di fischio, quindi hai trovato un insegnante? No? Sì. O è stata autoformazione? Com'è? Allora, diciamo, il grosso sì, è sparito nel mio sacco, però sono andato, ho fatto la ricerca, ho contattato su Facebook, proprio un pomeriggio stavo impazzendo, ho detto devo fare questa cosa un po' più seriamente. E ho contattato Tommaso Novi, il mitico e unico. Questo nome Tommaso non mi è nuovo. Novi. Non ti è Novi. Non mi è Novi. È praticamente lo storico cantante dei Gattinetti. Gattinetti forse li conoscete, sì, il duo, certo. Il duo vocale. E lui è il punto di riferimento del fischio in Italia. Infatti non lo dovevate chiamare lui. E vabbè, ma noi spingiamo avanti noi i giovani talenti. Quindi ti serviremo da trampolino di lancio. Esatto, speriamo. E Tommaso, a parte, no, davvero, nel senso, vi sprono a invitarlo, anche perché è uno che a Mondeggi città è il suo proprio, glielo diremo. E quindi sì, anche a suonare, a fare delle performance, perché davvero secondo me gli prenderebbe molto bene. Oh, molto bene, seguiremo il tuo suggerimento, guarda. Ma Tommaso, ecco, no, va, no, è stato un incontro bellissimo, perché io dovevo starci un'oretta e sono stato invece 2 ore e mezzo, perché lui si è stupito anche un po' delle mie doti fischiatorie o fischianti o fischiatrici? Fischiatorie? Forse sì. Come si dice, reverendo? Fischiante? Fischiante. Sì. Vabbè, quello. Ecco, vabbè. Quello lì. E Vabbè, ora niente di speciale. Lui, vabbè, cioè quindi ci sta dicendo che sei una sorta di Mozart, cioè no, un bimbo prodigio del fischio. Niente di che, solamente non mi aspettavo che lui mi facesse questi complimenti, che stesse così tanto a star dietro a me, perché insomma è stato tanto alla lezione e mi ha pure, ora lo dovrei ricontattare, mi ha pure proposto di fare dei duetti. No, wow, ganzo. Perché voi dovete sapere che poi c'è una cosa molto particolare, il fischio è un suono puro, cioè non è contaminato da altri armonici. Ah, ecco. Questo è curioso. E questa è una cosa molto interessante, perché noi abbiamo tutti gli strumenti che conosciamo, praticamente tutti, se non ad esempio l'ocarina, oppure... Che infatti fischia, ora, mi... cioè una sorta di fischio, no? Sì, praticamente sono suoni puri, cioè non sono contaminati da altri armonici, e quindi c'è una legge di Tartini... che questo tale Tartini, ora non so, era uno scienziato della musica, diciamo, scoprì che due suoni puri insieme creano un altro suono nascosto. No. E questa è una cosa fighissima che potete provare, ad esempio, con due frequenze pure. Ad esempio sul computer, se vi volete divertire con un generatore di frequenza. La cosa bella col fischio è che poi appunto sono due suoni puri, quindi noi ci siamo divertiti a fare questi duetti di fischio anche lì a lezione un pochino, e a sentire che scaturiva fuori un altro suono che andava anche inversamente a come te mandavi il tuo fischio, no? Cioè io tenevo un fischio fermo, Tommaso saliva col fischio e si sentiva un altro suono scendere, cioè era una roba fantascientifica, e psichedelica, no? Psichedelica. Psichedelica, guarda, infatti insomma, non avevamo fumato, ma eravamo molto interessante, molto interessante. Questa cosa la ignoravamo, almeno io la ignoravo. E quindi senti, ma parlaci un attimo di quelle che sono le tecniche che usi, poi chiaramente ci avrai delle tecniche segrete di cui non ci vorrai parlare, no? Però come, cioè, in che modo fischi fondamentalmente? Allora, come si fischia? Sì. Dunque, questo è il fischio classico, poi non so se c'hanno dei nomi, le varie tecniche, sì, aspirato, no, inspirato, allora, linguato, ditato, nasato, due, ragazzi, tre dita. La verità è che mi state prendendo per un esperto, ma non lo so. Vabbè, la verità è che te hai preso questa trasmissione per una vera trasmissione radio, ma non lo è, quindi siamo sullo stesso piano. esatto. Vai, tranquillo, allora, dici quello che ti pare. La cosa principale è che, vabbè, come tutti gli strumenti vanno allenati, quindi c'è una muscolatura proprio della bocca che provoca tutte le varianti di timbro, durata, intensità del suono. Quindi la cosa di partenza che mi ha spiegato anche Tommaso Novi è che il fischio può essere usato a tutti gli effetti come uno strumento qualsiasi. Chiaramente sì, la lingua occupa è di fondamentale importanza, e anche la il pomodoro d'Adamo. Ecco. Il gozzo. Pomodoro d'Adamo, hai detto bene. No, diciamo pomodoro d'Adamo, sì. Perché il suono grave, quindi il suono più basso di fisso, lo fai solamente se abbassi il pomodo d'Adamo. Se hai questa capacità di allargare la laringe, la faringe, e quindi creare un suono più grave, mentre il suono più acuto, a parte il fatto di portare la lingua verso il davanti, verso abbattere con i denti, devi spingere in su il pomodoro d'Adamo. Questa è una cosa molto complicata. Provo a farvi un esempio. Ora il mio pomodoro d'Adamo è completamente giù, abbassato. Ok. Mentre... stiamo provando anche noi. Sei arrivato molto in alto. È il massimo, mi sa mio. Il pomodoro d'Adamo, se sentite anche voi a provare, sta giù. Beh, vabbè, dopo tutto è una cosa che succede anche cantando, no? Però ci sta che ci sia bisogno di più scioglievolezza su sto pomo, fischiando. Cioè, deve andare su e giù più liberamente. Deve essere allenato a scorrere. Forse sì, comunque è anche molto simile la tecnica di, per certi versi al canto. Infatti anche Tommaso Novi è un cantante prima di essere un fischiatore. Certo, comunque anche la tecnica di emissione dell'aria, no? Cioè, immagino che da cantante poi è tutto più allenato e più facile, cioè le tue vie respiratorie sono più allenate. Esatto, c'ha già appunto tutta la muscolatura facciale sviluppata, infatti. E la cosa che diciamo che ha colpito Tommaso è stato appunto il mio fischio, che riesco ad arrivare un po' in alto. Provo a farvi un acuto. Oh, abbiamo sentito. Ce lo puoi rifare? Sì, rifaccio. No, vi faccio un glissando, però ho un po' la bocca secca, spero di vedere. Complimenti! Complimenti, era veramente pazzesco. Pensavamo che per telefono si sentisse male, ma noi qui in studio abbiamo sentito benissimo. In cuffia hai spaccato. Ecco, c'è un punto che scavalla, che va in un'altra sezione, è questo qua. Qui c'è un punto in cui io devo lavorare, però che ha colpito un sacco Tommaso Novi, e lì ho visto la sua faccia proprio illuminarsi e non riuscivo a capire com'è che io ad un certo punto scattava. Praticamente io ora ci dovrò lavorare, ma succede qualcosa che mi fa perdere giusto qualche tono, cioè qualche tono mi manca, e poi scatto direttamente all'ottava sopra praticamente. Ah no, cioè, ma quindi è proprio una cosa meccanica, sembra, che fa questo scalino. Sì, Tommaso in realtà era... mi era venuto un lampo di genio, mi aveva guardato negli occhi a un certo punto e mi aveva detto: forse ho capito, forse un piccolissimo, insignificante sputo di bava era andato a toccare il labbro e allora yeah, l'illuminazione dello sputo di bava. Sì, ho detto, magari questo... a te succede questa cosa che basta a toccare il dente e quindi poi... Allora, sicuramente sarà a seconda della bocca, della lubrificazione orale che uno ha, cambia anche, no? Anche lì il generare la saliva influisce molto. Che tipi di saliva sono richiesti? più fluido, ma... più... Guarda, vabbè, questo è, una, è un tecnicismo molto estremo, molto avanzato. No, stiamo scherzando. Sì. poi il fatto anche che io ho uno spacchettino tra i denti, tra i due incisivi, che magari fa scattare qualcosa di un po' particolare. Questo potrebbe essere una mia arma segreta. Ah, vedi, la tua unicità. Però, e qui vi racconto anche quest'altra sorellina, a proposito del fatto di cambiare lo stato della saliva, Tommaso appunto come scienziato fa anche questi esperimenti, cioè prova a capire com'è che poi gli esce il fischio mangiando un cucchiaione di miele, piuttosto che una tisana, piuttosto che del formaggio. Cioè fa questi esperimenti su di sé, cioè esatto. È uno scienziato, vero. Esatto. Interessante. E mi ha raccontato una storia che era fare un concerto, super concerto con i Gattinetti al Teatro Verdi, dove lui doveva iniziare, esordire col primo brano di fischio. Voleva essere super pronto perché era un concerto importante. Bisogna la brillante idea di andare dall'indianino sotto a prendere una bevanda. Trova un Gatorade al limone, no? No. E lui se lo finisce tutto, sale sul palco, non usciva niente. No, era impastatissimo dallo zucchero. Esatto, era un po' sofistico e me l'ha raccontato, un po' divertente. Aneddoto simpatico. Sì. Quindi provate anche voi a cambiare lo stato della saliva e a capire l'effetto. Vabbè, noi ci eserciteremo bevendo della birra, che è qui immancabile sul nostro tavolo accanto al mixer, chiaramente il nostro lubrificante preferito. Senti, ti faccio un'ultima domanda. E quindi hai iniziato così a fischiare, ti sei informato, hai incontrato Tommaso, è rimasto stupito, avete iniziato a praticare questa cosa, e io ti voglio chiedere, nella realtà anche musicale, ma non solo, hai trovato modo di iniziare ad esprimerlo oltre che con Tommaso, ecco? Allora, ancora... cioè, ci sono delle occasioni in cui puoi dire faccio un gruppo e faccio il fischiatore? Allora, è il mio obiettivo, cioè ci sto un po' lavorando sopra. Per ora non... diciamo che ancora avrei un po' da studiare per essere credibile, secondo me. Risposta onestissima. Tommaso è uno dei pochissimi, insieme allo storico fischiatore di Morricone che c'è stato, però a fare dei lavori, dei concerti col fischio, ma è una cosa che... un po' come avevate detto voi all'inizio, è un po' messa agli angoli, cioè il fischio è visto come diabolico a volte, visto ancora come oggi, quindi. Ancora oggi è visto come una cosa sciatta quasi, no? Sì, come una cosa che appunto lo stesso Novi diceva sulle navi, io lo sapevo, ma dice che sulle navi è proprio vietato fischiare. Perché c'è invece ci sono i fischi di avvertenze, appunto di servizio, che vanno rispettati. Insomma, è una cosa un po' particolare. E poi il fischio è anche uno strumento un po' a lungo andare, probabilmente un po' rompiscato. come ci ricorda la triste storia del ragazzo di Sassari. Abbiamo parlato prima. Un saluto al sassarese fischiatore. Grandissimo, tra l'altro voglio cercarmelo. e quindi diciamo, per ora è una cosa, è un po' un sogno. È un po' un sogno il fatto di fare un mio quartetto di jazz, dove io faccio questo, mi piacerebbe molto. E credo che ci siano le possibilità, però perché il fischio si affermi. Ecco, purtroppo ci sono ancora pochissime persone che fischiano seriamente, cioè Tommaso appunto è l'unico in Italia che fa lezioni vere e proprie di fischio. Io spero che, ecco, tra una decina d'anni il fischio sia effettivamente considerato come uno strumento a tutti gli effetti. Per ora bisognerà lavorarci, magari. Grande. Senti, su questo, sì, su queste buone speranze, su questo augurio, direi che ci salutiamo. Ecco, magari verrò proprio a Mondeggio a fare un pezzino di fischio, se quando si potrà. Perché no, perché no? Volentieri, molto volentieri. Siamo veramente curiosi, questo strumento così versatile. Inaspettato, inaspettato. No, ti ringrazio tanto per questo contributo. Cioè, mi hai veramente fatto scoprire nuovi musicisti e un sacco di cose divertenti. E in bocca al lupo per il tuo studio. Esatto. La tua carriera. Dai. Esatto. E sì. Grazie del tempo che ci hai dedicato. Grazie mille. Continueremo. Buono. Adesso. Grazie a voi. Vai Mike, grande. Grazie, dai, grazie. In bocca al lupo per le lezioni e per la carriera del musicista. Vai anche a voi. Ciao. Alla ciao, prossima. Ciao. Saluti infiniti col grande Mike, il fischiatore di frittole. Va bene, allora. Lo avremo in studio presto. È stata una telefonata veramente lunga. Davvero? Wow. Speriamo che i nostri ascoltatori non siano impazziti. Speriamo. Comunque, che vi sia garbata. Potete offenderci mandando un messaggio frittole@gattini.ninja. Invece sono lì. Le nostre 12 entità all'ascolto rimangono all'ascolto. E vuol dire che magari sono stati stuzzicati. Chissà, magari sono lì a provare a fischiettare. Mandiamogli un po' di musica, dai. Thank you. Alessandro Alessandroni. Buonasera maestro, a nome di tutta Manziana, grazie di essere qui, è veramente un onore, un grande onore. L'onore è mio. Non mi aspettavo, io sono un po'. L'onore è mio. Allora stiamo facendo un casino con le tracce. Volevamo farvi ascoltare Alessandro Alessandroni, che come ci ha raccontato Mike prima è il fischiatore, era il fischiatore che ha fischiato nelle colonne sonore di Morricone per tutti i più famosi film western di Sergio Leone, e è morto nel 2017 all'età di 92 anni. Alessandro Alessandroni, il fischio western più famoso del mondo. Semplicemente emozionante. Grazie. Semplicemente emozionante, maestro. Se mi fate emozionare non riesco più a fare niente. Addio Cheyenne. Addio Cheyenne. Sì, mi pare giù la testa, ma non vorrei sbagliarmi. Comunque. Bravissimo. Bella, non mi serve, grazie. torniamo veloci dopo Alessandro Alessandroni, questo live di lui veramente vecchino, super super dolce, tutto emozionato a fischiettare sul palco di un'improbabile fiera, sagra, non si sa cosa. E torniamo secondo a Ron McCroby, giustamente suggerito dal buon Mike, che ci ha veramente dato uno spunto per sto musicista fischiettatore incredibile. E ci avviamo verso la fine della puntata, 6 dicembre 2020, RadioWombat.net. Qua siamo a Frittole, l'arte del vizio, anche l'arte del fischio. 20:59, mannaggia, Doctor Io, vola. Ma che dici, ce l'abbiamo il tempo per un'ultima telefonata? Ah sì, io direi proprio di sì, dai, proviamo a farla. Proprio perché è tempo di sorprese, così scoccano le 9 e vogliamo darvi in anteprima questa notizia, una bomba che dovete mettere in agenda. Vediamo se la prende bene essere chiamato all'ora di cena. Speriamo risponda, dai. Sì. Squilla. Non sono molestissimo. Questo è un tono puro. È veramente un tono puro. Tono puro. Potremmo far squillare due telefoni e ottenere un terzo suono. Oh, Don Camicia! Aspetta, questa è domenica sera, mi sa, vero? Tu lo sai, lo sai che sei nell'orario. Nell'orario protetto. Devo spegnere il cellulare. Hai fatto male a rispondere. Sei caduto nella gabbia dei leoni. Ci sei cascato. No, speriamo di disturbarti durante la tua cena. No, guarda, ho già mangiato. Stavo guardando Mad Max. A caso, tranquillo. Ti chiami Don Camicia. Sto guardando Mad Max. Guardi sempre questi filmacci. Ogni sera sempre solo filmati. Don Camicia, allora benvenuto all'arte del vizio, anche arte del fischio. Stasera arte del fischio, sì. E ti abbiamo chiamato. Chi siete? Drio. E basta. Siamo soletti in studio, ma abbiamo avuto una interessantissima telefonata con un grandissimo fischiatore. E che ci ha parlato per una buona mezz'ora del fischio come pratica musicale, artistica e non solo. Dai. Però ci abbiamo alla chiusura di questa favolosa puntata e volevamo te un intervento live per dire in anteprima che cosa ci sarà, che cosa succede domani prima di tutto e poi che cosa succede domenica prossima. Wow. Speravo che avevo paura, mi chiedeste se sapevo fischiare o cose del genere. No, non lo so fare. Quello invece dopo. Carmine che è accanto a me mi sembra che sia molto bravo. Ah sì, allora tanti saluti anche a Carmine. Fa finta di dormire per non farsi coinvolgere. Nonostante Mad Max, fa finta di dormire. Allora, cosa succederà domani? Cos'è domani? Domani l'altro, perché ricordiamo a tutti. Le cose belle escono solo nei giorni santi, no? Come domani l'altro, giustissimo. Esatto, quindi l'8 dicembre è il giorno del release dell'ultimo album di In Camicia. Applausone. Oh mio Dio! Applausone. Ultimo album veramente sofferto, perché l'abbiamo registrato nel corso del 2019 e finalizzato ora nel 2020 grazie all'assenza della socialità. Quindi ringraziamo, un grande ringraziamento al Covid che ci ha permesso, più che altro ha permesso il cantante Simon The Singer, e anche grafico e anche editor e un po' un sacco di robe, di stare invece, uscire tutte le sere, stare in casa a finire di editare l'album. Insomma, ti fiamo un sacco lockdown. Di cose registrate. In Camicia ti fanno lockdown. Esatto, nei momenti come dopo la fine dei dinosauri, no? Quei piccoli mammiferini nascosti sotto i cespuglietti, pian piano sono diventati i dominatori del mondo, così noi nel nostro angolino musicale, nel momento in cui sono interrotti tutti i concerti in tutto il mondo, noi abbiamo prodotto tantissimo. Infatti martedì non solo è stata concepita la Vergine Maria, ma viene concepito anche questo album e il video del Duomo di New York, quindi ci sarà un doppio release. No, il Duomo di New York. Sì, no, no, è il giorno più atteso dell'anno. Domani l'altro per me è già 2021, sì, per me è come cioè mercoledì è come un capodanno. Bomba a mano proprio, no, quindi bomba a mano, sì. Siamo in trepida trepidazione. Guarda, anche noi stiamo per fare una spammata epocale. Abbiamo già visto girare qualcosa con numerosi sponsor che appoggiano la causa degli Incamiscia. Esatto, notevole, Amaro La Vita, primo degli sponsor ufficiali. E poi tutti però anche TV Bene. TV Bene. Sì, che protegge i diritti dei musicisti. È chiaro, no, è fondamentale, insomma, per la sopravvivenza dell'arte, sì. E quindi che dire, che poi ovviamente ci dedicheremo soltanto a promuoverlo soltanto nei posti giusti, solo nei posti giusti, infatti, come la vostra bellissima regia di Fritz. Arrivaci. Alla chicca. Un secondo di silenzio. Okay. Ok. Domenica prossima saremo presentissimi con voi per fare una bellissima serata insieme. Sì, ecco la notizia. Sì, la stiamo preparando con un sacco di chicche. Noi stiamo preparando gli strumentini. Noi stiamo preparando le gabbie di plexiglass entro cui vi caleremo. Grazie. E quindi la notizia è questa: che domenica prossima, carissime e carissimi ascoltatori e ascoltatrici, ci saranno gli Incamiscia live e vi potremo raccontare delle cose soltanto a voi e a quelle tantissime succose ascoltatrici che saranno connesse e ascoltatori, quindi noi vi racconteremo come è nato questo album e come non morirà mai. E poi dovete raccontarci tutto di voi, cioè le vostre abitudini sessuali, le vostre abitudini mattutine, serali. Esatto. Sì, esatto, quante volte andate in bagno, cosa mangiate a colazione, tutto. No, infatti, saranno, quant'è di tempo? 2 ore? Quanto sì, sarà? Sì, due ore. Potremmo chiedere una proroga. Io porto il sacco a pelo, non si sa mai. Comunque saranno 2 ore di viaggio nei segreti più reconditi di Carmine, di Don Camicia, di Simon the Singer e del misterioso Demon Cesar. Cesar, il batterista ricercato da tutte le polizie del mondo. Esatto, sì, infatti verrà, non so come si presenterà lì, probabilmente arriverà in elicottero, non lo sappiamo fino all'ultimo. Voi invece arriverete con una limousine bianca. Noi anzi quella limousine con le corna, quelle da texani, con la Texana di bufalo. Esatto, i cuori rosa, i cuori... bella. Si prepara un tappeto, il red carpet, quindi quando uscite dalla macchina ci saranno quelli a farvi le foto. Esatto, sì, dipingete di rosso anche la scala per la regia. Puledra! Boom! Cose sono reputa madre! Questa è l'arte degli Incamiscia. Chissà cosa ci avete preparato in questo nuovo lavoro. Tanto vi manderemo tutto martedì, cioè vi arriverà tutto, insomma, in anteprima o più o meno tra i primi che potrete gustare il nuovo album, e quindi ascoltatevelo, segnatevi tutto ciò che vorreste sapere, perché noi vi diremo tutto. Grandissimo, bello, ci prepareremo a dovere. Grazie Cami, belli, è bello, tutto bellissimo. Bello, bello. No? Grazie a voi, grazie a voi, grazie a Frittole, che viva la vita, e viva l'amaro, la vita. Evviva. Allora, per saluta. Contratto, lo devo dire una volta ogni 5 minuti. Mi spiace. Cioè, insomma, non svegliare Carmine, salutacela tanto. No, tanto cioè, ormai se la sta ridendo, no, si è svegliata. Allora, scusa, chiedigli se ci fa un fischietto. Una fischiatina. Un fischietto? Prova. Latte del fischio. Ok. Che bello. Può essere inteso come un fischio che non esce dalla bocca, ma da altre parti del corpo. Un fischio vestito. È il famoso pernacchio. Il pernacchio. Cioè, non vedo l'ora che sia martedì, non vedo l'ora che sia domenica e poi basta. Bella donka. Grazie, no, Cami. Grazie. Veramente. Grazie a voi. Grazie solo a voi, solo amore. Solo amore per voi. Yes, solo amore. A presto. A presto. Dai, divertitevi. Buonanotte. E buona alla prossima. Buonanotte. Ciao, vi voglio bene. Ciao. Yes. Limonate. Limonate duro. Ciao. E questi sono gli incamiscia, vi consigliamo di andarveli a cercare, andare a cercare il video di questa cicciarrita boom boom boom, per avere un'idea dei personaggi che avremo affritto la settimana prossima. Allora, così, con questa grande notizia, finiamo. Veramente spumeggiante questo finale di puntata. Ricordatevelo, segnatevelo, domenica prossima dalle 19 in poi. Dalle 19 in poi, in camicia, live, su Radio Wombat, l'arte del vizio, del fischio, del rischio. Grazie che ci avete supportati e niente, vi rimandiamo all'ascolto di Radio Wombat, seguite tutti gli interessantissimi programmi che ci sono, vi segnaliamo Radio Contado mercoledì alle 14.30, così. Comunque se andate su radiowombat.net/palinsesto troverete un fantastico palinsesto che magicamente vi farà vedere cosa sta andando in onda quel giorno lì. Per cui andateci, ci sono... Sì, è una radio più viva che mai, un sacco di trasmissioni, podcast, mix musicali, trasmissioni informative, insomma c'è di tutto e di più. 13.59 AM. E noi ci sentiamo domenica prossima. Buonanotte. We'll be right back.